Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.09, buona serata da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia per fare il punto della giornata economico-finanziaria. Avete sentito anche nel corso del giornale radio che questa sera la durata di Focus Economia sarà fino alle 18, perché poi dopo il giornale radio delle 18 invece avremo lo speciale dedicato a questo devastante terremoto e tsunami che ha colpito il Giappone e alcune aree circostanti, con timore appunto che gli effetti si propaghino anche a tante altre zone. Noi parleremo anche, per quello che ci compete, del quadro giapponese dal punto di vista economico, delle ricadute che oggi ha avuto sui mercati questa situazione, perché avete sentito nelle anticipazioni che abbiamo dato è crollato il prezzo del petrolio, mercato sempre cinico. Questa ci può apparire sicuramente una buona notizia dopo i record degli ultimi giorni, e però bisogna anche vedere il motivo per cui è successo, e faremo un punto sullo stato di salute dell'economia giapponese, già aggravata da una stagnazione che dura da 20 anni, un'economia in deflazione e tra l'altro protagonista nei mesi scorsi dello storico sorpasso a vantaggio della Cina, che è diventata la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, e appunto il Giappone è finito al terzo posto. Ne parleremo tra un po' con un economista, poi parleremo anche oggi, faremo tutto in maniera piuttosto sintetica, abbiamo concentrato tutti gli argomenti di un'ora e mezzo in un'ora, parleremo naturalmente di borsa, giornata negativa su tutti i versanti, c'è qualche problema, ce l'hanno segnalato alcuni ascoltatori e poi l'ho verificato anche dalla nostra piattaforma, sulla diffusione del Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici americani, che effettivamente ha un flusso che sta arrivando in largo ritardo oggi, non riesco a comprenderne le ragioni. Per lo meno non ho visto niente di particolare dalle agenzie, ne prendiamo atto. Per il resto, in Europa la situazione è abbastanza pesante, perché ci sono cali di oltre un punto percentuale su Francoforte, perdono un po' meno Parigi e Londra, Milano perde lo 0,92%, l'euro sul dollaro a 1,38,44. Nuovo vertice a Roma oggi sull'andamento dei prezzi della benzina, sentiremo che cosa ha detto il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Peraltro, con questo petrolio a $99, chissà quanto durerà, dato questa emergenza giapponese, che sicuramente non è destinata a ridimensionarsi nel giro di poche ore. Vedremo se la benzina sarà in grado di recepire anche i ribassi del prezzo del petrolio nei prossimi giorni, o se invece ha intenzione di continuare ad andare al rialzo, come sta ancora continuando a fare. Questo è quanto è successo oggi. Faremo anche un rapido excursus a Bruxelles, dove oggi i 17 paesi della moneta unica europea discutono il nuovo patto per l'euro, si impegnano ad essere più competitivi e ad eliminare il più possibile gli squilibri esistenti sulle fronte dei conti pubblici, della dinamica salariale, della spesa pubblica, a partire da quella per le pensioni. Quindi questo tavolo dei leader dell'Eurozona ce lo racconterà come sta andando il corrispondente da Bruxelles di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Antonio Poglio. Salimbeni tra pochissimo. 349-238-6666, avete sempre l'opportunità di inviarci i vostri messaggi. Noi adesso andiamo alle notizie in breve. Come vi dicevo, oggi petrolio sotto i riflettori, una ricaduta piuttosto importante del drammatico sisma che ha sconvolto e sta sconvolgendo il Giappone. I prezzi del petrolio sono scesi per la prima volta da una settimana sotto i $100 al barile, dopo appunto il terremoto giapponese che ha costretto la chiusura di alcune raffinerie. Il terremoto ha un effetto psicologico sul mercato, facendo aumentare l'avversione al rischio, lo ha detto un analista di Deutsche Bank. L'effetto è anche fisico, con la domanda di petrolio giapponese che sarà per un certo periodo più bassa. Ricordiamo che il Giappone è il terzo maggior consumatore di petrolio al mondo. Un'altra notizia che riguarda il petrolio, con però un riferimento libico, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, ha reso noto oggi che le esportazioni di petrolio dalla Libia sono calate ben sotto i 500.000 barili al giorno. E i consumi petroliferi italiani nel mese di febbraio di quest'anno sono ammontati a circa 5,7 milioni di tonnellate, con un aumento pari all'1,7% sullo stesso mese del 2010. Lo ha comunicato l'Unione Petrolifera. I prodotti autotrazione, a parità di giorni di consegna, hanno rilevato le seguenti dinamiche. La benzina nel complesso ha mostrato un calo del 2,5% su febbraio 2010, mentre il gasolio autotrazione un incremento del 4,6%. Dicevamo, non si sta fermando la salita del prezzo dei carburanti. Oggi nuovi rialzi sulla rete appunto stradale italiana. A muoversi sono state IP e Tamoil, entrambe hanno aumentato di 0,5 centesimi i listini di benzina e diesel. Ferme invece tutte le altre compagnie. La punta massima toccata è stata a 1,61 euro. Un paio di notizie dagli Stati Uniti, le vendite al dettaglio negli USA. Perché diamo questo dato? Perché i consumi americani sono molto importanti per la ripresa dell'economia globale. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti in febbraio sono salite dell'1%, un dato in linea con le stime degli analisti. Al netto del settore auto, il rialzo è stato dello 0,7%, come invece previsto dagli analisti. Discesa invece abbastanza dirompente, mi sembra, dell'indice di fiducia dei consumatori americani misurato dall'Università del Michigan. In marzo la rilevazione è calata a 68,2 punti dai 77,5 di febbraio. Via libera dall'Unione Europea ad una sorta di piano Marshall per il Mediterraneo. A medio termine, si legge in un passaggio della bozza di conclusioni del vertice straordinario di Bruxelles sulla crisi in Libia, il Consiglio Europeo chiede un nuovo partenariato con la regione in linea con la dichiarazione del 4 febbraio scorso. A riguardo accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante in cui si propone un partenariato, scusate, questa è una parola che evidentemente riesco proprio a produrre, per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale, con un'impostazione differenziata e basata sugli incentivi in cui concorrono tutti gli strumenti dell'Unione Europea. Questione libica e società quotate in Italia. Alla luce delle decisioni pubblicate oggi dall'Unione Europea, l'Unicredit ha fatto sapere oggi, proprio con riferimento agli azionisti libici, c'è un pacchetto del 7,5% nel capitale di Piazza Cordusio riconducibile alla Libia, l'esercizio dei diritti relativi alle azioni possedute sarà congelato in conformità a tali decisioni, lo ha reso noto proprio una nota dell'Istituto di Piazza Cordusio. Legare i salari all'andamento della produttività, elevare l'età pensionabile, limitare i prepensionamenti e recepire nella legislazione nazionale i vincoli europei su deficit e debito, varare norme nazionali per la risoluzione delle crisi bancarie e poi ancora accelerare sulle liberalizzazioni, ridurre il costo del lavoro, rendere più flessibile il mercato dell'occupazione. Questi gli impegni che i paesi della moneta unica si apprestano a prendere con il nuovo patto per l'euro, il cui via libera è atteso nel vertice dei leader dell'Eurozona in programma stasera a Bruxelles, impegni che saranno successivamente integrati nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità da inviare a Bruxelles. Andiamo ai dati italiani, anche questo dato oggi abbiamo dato più volte diffusione. Il PIL italiano nel quarto trimestre dello scorso anno è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente del 2009. Lo ha rilevato l'Istat in base a dati corretti per effetto di calendario e destagionalizzati, confermando la stima preliminare diffusa a febbraio per il dato congiunturale e rivedendo al rialzo il tendenziale, più 1,3%. Si registra quindi rispetto al terzo trimestre un rallentamento sul congiunturale e un'accelerazione sul dato tendenziale. Il PIL italiano nel quarto trimestre è cresciuto però meno che nel complesso dei paesi dell'area euro, area che ha messo a segno un più 0,3% congiunturale e un più 2% tendenziale. E allora, dati del quarto trimestre 2010, complessivamente nel 2010 il prodotto interno lordo italiano di quanto è cresciuto dell'1,2%, sembra essere un buon dato perché è stato così rivisto al rialzo il dato contenuto invece nella stima preliminare diffusa il 15 febbraio, che dava il PIL a più 1,1%. L'Istituto di Statistica italiano, l'Istat, aggiunge anche che il 2009 si era chiuso con una contrazione dell'economia del 5,2%. Nel 2009, l'anno più duro della recessione, i ricchi d'Italia con reddito sopra i 70.000 euro si sono ridotti di oltre 3.000 unità e quelli sopra i 200.000 sono calati del 7%. Sono i dati delle dichiarazioni dei redditi raccolti dal Dipartimento delle Finanze, dati anticipati oggi dalle Sole 24 Ore. Il 2009 è stato un anno di crisi molto profonda, con un crollo del PIL del 5,2%, ma il quadro che emerge dalla lettura complessiva dei dati delle dichiarazioni dei redditi è comunque di tenuta tanto delle basi imponibili quanto del gettito. Lo si legge nell'analisi delle statistiche sull'IRPEF per l'anno d'imposta 2009, stilata appunto dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Un'ultima notizia, vi posso leggere: i redditi del sud sono cresciuti nel 2009 più di quelli del nord, ma rimane ancora ampio il divario fra le diverse aree del paese. Questo è quanto emerge appunto sempre dai dati già citati delle dichiarazioni IRPEF 2010 relative ai redditi 2009. Dai dati emerge che il reddito medio del sud è cresciuto dell'1,75% rispetto al 2008, seguito dalle isole più 1,64%. Il nord-est ha invece visto un aumento dello 0,26%, superando anche il più 0,07% del nord-ovest. Il centro ha segnato invece una crescita dei redditi medi dello 0,76%. Direi che possiamo lasciare le notizie in breve e andiamo al nostro primo approfondimento. Parliamo appunto dell'economia giapponese. Allora, emergenza nucleare in Giappone dopo il devastante sisma di magnitudo 8.9 della scala Richter, con il conseguente tsunami con onde fino a 10 metri che ha colpito la zona nord-occidentale del paese. È stato per molte aree dichiarato lo stato di emergenza, incendi, mezzi di trasporto letteralmente divorati dalle acque. Insomma, già per tutta la giornata vi abbiamo dato ampi dettagli rispetto a quanto è accaduto. Una prima reazione sul mercato c'è già stata questa mattina: la borsa di Tokyo ha chiuso la settimana con un calo dell'1,72%, e tra l'altro già era partita male la seduta giapponese stamattina. Poi, nell'ultimo quarto d'ora di contrattazione di scambi, l'accelerazione a ribasso per quello che riguarda l'indice. Ma l'effetto più dirompente di questa situazione lo si è registrato sulle quotazioni appunto del petrolio, come vi dicevo, che a New York è sceso sotto i $100 al barile. Qual è la salute, se di questo possiamo parlare, se di stato di salute possiamo parlare per l'economia giapponese? Facciamo una piccola analisi con Luca Mezzomo, responsabile della ricerca macroeconomica di Banca Intesa San Paolo. Dottor Mezzomo, buonasera. Buonasera. Allora, intanto, i leader dell'Unione Europea da Bruxelles si sono detti pronti a mobilitare gli aiuti verso il Giappone. Questo ci pare appunto un messaggio di solidarietà e di impegno molto importante. Un terremoto anche finanziario in un colpo solo, vi leggo qualche notizia: l'economia giapponese che stava faticosamente risalendo la china dopo la crisi finanziaria, che pure l'ha colpita in maniera molto forte, quella degli ultimi anni, e un decennio di deflazione, potrebbe aver perso 55 miliardi di dollari. Lo ha stimato un analista finanziario di base a Singapore. Il primo impatto di questa situazione maturata nelle ultime ore sarà un indebolimento della moneta proprio a causa della fuga degli investitori verso il dollaro. Ma una moneta debole favorirebbe a questo punto l'export, dando addirittura nuovo slancio alla produzione. Come dicevo, Luca Mezzomo, in apertura il mercato è sempre piuttosto cinico anche di fronte alle disgrazie. Già vedo che molti colleghi si sono sbizzarriti nell'analizzare quali potrebbero essere addirittura gli impatti positivi di questa situazione che si è creata dall'emergenza giapponese. Ci spiega il motivo del forte ribasso del prezzo del petrolio? Io penso che la ragione sia da ricercare nell'aspettativa che vi sia un calo temporaneo dell'attività economica in Giappone a causa dei danni subiti dalle strutture produttive nella zona del paese colpita dal terremoto e soprattutto poi dallo tsunami che ne è seguito. Il Giappone in effetti è un grosso importatore di idrocarburi, in particolare di petrolio, e quindi vi può essere l'aspettativa che questa pausa nell'andamento dell'economia giapponese possa influenzare poi il livello della domanda di greggio. Temo che questa catena logica forse sia un po' tirata, perché dubito che l'evento di per sé possa alterare in modo significativo l'equilibrio mondiale sul mercato del petrolio, soprattutto in una fase come questa in cui poi vi sono tanti altri fattori di natura geopolitica che vanno a sostenere invece le quotazioni. Lo stato di salute dell'economia giapponese, facciamo un quadro mezz'uomo di come se la passa l'economia nipponica. Abbiamo già citato prima lo stato di deflazione nella quale vive da anni, stato di bassissimi tassi di interesse, lo stesso da un numero molto alto di anni, un paese che vive una condizione quasi di dissesto della finanza pubblica, ma che comunque continua a sostenere l'economia proprio con la politica di tassi bassi, peraltro però protagonista di un circolo vizioso dal quale è difficile riuscire ad uscire, perché appunto praticando bassi tassi si invitano le banche, gli istituti di credito a continuare ad alimentare appunto gli acquisti dei titoli di Stato, per cui insomma rimane un po' tutto circoscritto lì e questa economia sicuramente non riesce a venire fuori da questo circolo vizioso. Sì, esattamente, direi che è una situazione assolutamente surreale quella giapponese, perché stiamo parlando di un paese che ha un debito pubblico lordo che ormai supera il 200% del PIL, con un rapporto deficit-PIL che l'anno scorso è stato superiore all'8% del PIL, e anche quest'anno, prima di vedere poi quelle che saranno le stime del costo per la finanza pubblica della ricostruzione, era comunque già stimato a oltre il 7% del PIL. Ecco, questa situazione che in qualsiasi altra parte del mondo avrebbe portato a feroci tagli del merito di credito e probabilmente a una crisi dei mercati, in Giappone invece non ha ripercussioni così pesanti sulle quotazioni dei titoli di Stato a causa del fenomeno che abbiamo menzionato, cioè di questo sostegno continuo che arriva dalla banca centrale attraverso la creazione di liquidità, che favorisce quindi l'investimento in titoli di Stato da parte del settore finanziario. Quindi il terreno più fertile è possibile affinché la Cina riuscisse a sorpassare appunto dal punto di vista macroeconomico il Giappone. La Cina nei mesi scorsi abbiamo dato ampia risalto a questa notizia, è diventata ufficialmente la seconda economia del mondo nel 2010 proprio a spese del Giappone, un sorpasso che è avvenuto dopo ben 42 anni per la prima volta dalle 68 se non ho capito male, un sorpasso che è avvenuto nei mesi scorsi, che era nell'aria già da tempo, che le cifre ufficiali appunto hanno cancellato in termini di dubbio abbastanza rapidamente. C'è tra l'altro anche un Parlamento diviso sull'approvazione del budget 2011-2012, il debito pubblico è esploso al 200% del PIL come ci ricordava Luca Mezzomo, quindi su questo si abbatte anche lo tsunami e il terremoto. Peraltro in uno Stato che è già molto interventista su tutto, Mezzomo, mi chiedo appunto come sarà anche in grado di mettere in piedi una ricostruzione di un paese in ginocchio, letteralmente in ginocchio. Sì, probabilmente faranno come prima, cioè per il momento vedendo che i mercati non si preoccupano più di tanto di questa esplosione del debito, continueranno a finanziare la spesa pubblica in deficit. E anche da loro, per l'incertezza politica, è abbastanza difficile che vi sia una seria politica di austerità fiscale prima delle elezioni, come accade del resto anche negli Stati Uniti. Quindi probabilmente il Giappone continuerà a vedere esplodere i livelli di debito, a maggior ragione adesso perché c'è anche da gestire la ricostruzione, e soltanto nei prossimi anni poi dovranno uscire con una seria politica di medio termine per uno, riportare le entrate più in linea con le spese, e due, capire come gestire questa massa di debito che diventerebbe esplosiva qualora si entrasse poi in uno scenario di rialzo dei tassi di interesse. In tutto questo, tra l'altro, Mezzomo, mi incuriosiva un dato, quello relativo al prodotto interno lordo registrato dal Giappone nel 2010, perché a meno che non abbia una cifra sbagliata si parla di un più 3,9%, probabilmente si parte da una situazione rasoterra abbastanza evidente, ma magari avessimo noi queste cifre. Ah no, è stata una crescita molto robusta l'anno scorso, devo dire è drogata come anche negli Stati Uniti dalla politica fiscale, quindi di nuovo abbiamo visto ancora nel 2010 un netto rimbalzo del PIL aiutato dal boom della spesa pubblica. È un ciclo che si ripete in continuazione in Giappone, nel senso che vediamo più volte delle forti fasi di ripresa alimentate dalla spesa pubblica che poi si spengono perché l'economia, una volta rimosso poi questo puntello, non è più in grado di generare dei tassi di crescita sostenuti. E comunque l'altra ambizione giapponese, peraltro a meno che tutto ovviamente non si fermi adesso per far fronte all'emergenza di questi minuti, che probabilmente sarà tale per le prossime settimane, le borse di Tokyo Tokyo e Osaka puntano alla fusione per dare vita ad un colosso tutto giapponese che in termini di capitalizzazione di mercato diventerebbe il secondo operatore finanziario mondiale. Ricordate, nei mesi scorsi abbiamo parlato a lungo del risico finanziario che si è rimesso in moto proprio per dar vita ai grandi colossi della borsa mondiale, e anche in Giappone appunto c'era questa ambizione di creare un altro leader del settore. Peraltro già il Tokyo Stock Exchange è attualmente la terza borsa mondiale in termini di valore totale delle azioni quotate. Io ringrazio Luca Mezzomo per essere stato con noi. Buona serata, presto. Buona serata, arrivederci. Grazie. E noi, sai com'è, sono disabituata, Paola, a fare Focus Economia, quindi il cambio di sigle mi disorienta sempre un po', così come forse un po' anche il cambio di argomenti. Dobbiamo schizzare subito a Bruxelles, dove c'è il vertice dei leader dell'Eurozona, in programma stasera, per la verità, per essere precisi. Insomma, qual è la vigilia di questo importante meeting? Antonio Poglio Salimbeni, Radio Corriere del Sole 24 Ore, corrispondente a Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il nuovo patto per l'Eurozona, di che cosa si sta discutendo in queste ore e che tipo di margini ci sono per dare il via libera a questo piano così ambizioso? Ma dunque, per la verità il piano era ambizioso fino a una settimana fa, poi via via si è un po', è stato piuttosto edulcorato, diciamo, rispetto alla versione proposta da Francia e Germania ormai 20 giorni fa, che tante polemiche aveva suscitato. In sostanza si chiamerà patto per l'euro, si tratta di una serie di principi per migliorare la competitività e il inquadrare ancora meglio tutta l'attività di supervisione delle politiche economiche e macroeconomiche e di controllo dei bilanci, dei conti pubblici. Ma non ci saranno delle indicazioni vincolanti per gli stati decisi a livello europeo, non ci sarà la richiesta di stabilire a 67 anni in tutti i paesi l'età minima di pensionamento, l'età legale, come non ci sarà l'indicazione a cancellare, abolire, laddove ancora esistono in 3-4 paesi europei, le indicizzazioni salariali. In sostanza, di questo documento la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva bisogno per dimostrare all'opinione pubblica tedesca, la Bundesbank, che ha una forte maggioranza dei suoi parlamentari che sostengono la coalizione di governo in Germania, che è in grado di far passare dei principi politici a livello europeo in cambio della disponibilità a sostenere gli aiuti finanziari ai paesi che rischiano di essere travolti dalla crisi del debito sovrano. Ottimo. Antonio, guarda, il tempo oggi ci è volato, siamo molto più sintetici del previsto per dare poi spazio allo speciale per il Giappone. Ti ringrazio, eravamo grazie solo alla vigilia, sicuramente domani sarai meritevole di molti più approfondimenti. Oggi non abbiamo più tempo, a presto, buon lavoro, ci fermiamo. Adesso una piccola pausa, poi torniamo subito insieme per parlarvi della giornata di borsa e di qualche altro argomento tra poco. E sono le 17.37, vi ricordo che questa sera Focus Economia, oltre che ad essere condotto da me, come avete avuto modo di accorgervi, ha un formato un po' ridotto, perché alle 18 dopo il giornale radio daremo lo spazio ad uno speciale dedicato al devastante terremoto che ha sconvolto, che sta sconvolgendo il Giappone. Adesso, visto Paolo che mi ricordo di tutte le sigle, raccontiamo un po' quello che è successo oggi in borsa. Hai visto? Sei rimasto stupefatto, eh? Allora, borse oggi negative in Europa. Qualcuno dice, ma insomma, cosa state dicendo? Non è vero che è colpa del Giappone? Un pochino sì, perché effettivamente il settore assicurativo è sceso molto anche a causa di questo, è accaduto particolarmente a Francoforte, che è la peggior piazza d'Europa, e vedo che scende dell'1,16%. Parigi meno 0,89, Londra meno 0,25 e Milano un punto secco di ribasso. Sulle valute, euro su dollaro 1,38,42, l'altro tema, il petrolio però è sceso prepotentemente per la situazione giapponese, a New York sotto i $100 al barile, livello che non vedeva da diverse settimane. Buonasera a Paolo Paronetto, collega di Radio Il Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Allora, quanto ha voluto dire oggi la situazione giapponese in questa nuova discesa dei listini, che hanno già avuto una settimana piuttosto negativa, però in questo caso per fattori domestici europei, in particolar modo a causa di Moody's, che non ha fatto altro che tagliare rating qua e là in settimana? Sì, sicuramente, e anche il, appunto, come dicevi tu, la situazione in Giappone con il terremoto e l'allarme tsunami per molti paesi del Pacifico non ha fatto altro che peggiorare una situazione che sulle borse era già diventata negativa sul finire della settimana dopo i tagli di rating di paesi europei e dopo naturalmente le continue tensioni in Libia che già da tempo condizionano le quotazioni dei listini. Un peggioramento del quadro dovuto sia ai timori legati alle possibili ripercussioni economiche, sia, come ricordavi tu, all'andamento del petrolio che oggi è sceso zavorando i titoli dell'energia, ma in particolare proprio il settore assicurativo è quello che ne ha risentito maggiormente. A livello europeo il sottoindice è stato il peggiore, oggi ha perso il 2%, soprattutto i titoli tedeschi delle assicurazioni hanno perso tra il 4 e il 5%, la peggiore è stata Munich Re che proprio ha già registrato un onere di oltre 700 milioni a causa di un terremoto in Nuova Zelanda il mese scorso, quindi ovviamente si teme che possa subire un effetto analogo e sulla scia di questo andamento anche i titoli milanesi hanno perso terreno, generali la peggiore in calo dell'1,9%, ma tutti sono scesi. Tra l'altro non si capisce perché poi debbano scendere anche in maniera così forte, visto che le assicurazioni di questo vivono, cioè comunque proteggono proprio da situazioni di emergenza come queste, però poi quando arrivano colpiscono molto più del previsto, proprio per gli oneri che poi il settore assicurativo deve sopportare. Andiamo ai casi di Piazza Affari, cominciando con il miglior titolo, l'Ottomatica più 4,61%, che distanzia nettamente il secondo miglior titolo della giornata. Tutti e due peraltro le società hanno delle storie da raccontare. Questa è Telecom più 0,44%. Peraltro, Paolo, c'è un ascoltatore che così un po' maligno dice: Luca da Bologna, l'Ottomatica è salita di oltre il 20% nelle ultime 3 settimane. Non è che qualcuno già sapesse come fossero i conti del 2010, soprattutto l'outlook sul 2011? Beh, i bravi analisti teoricamente, come dire, dovrebbero sapere più o meno come vanno i conti delle società anche anticipandoli un po'. Sì, certo, diciamo che volendo pensar bene il management spesso incontra gli analisti in vista della presentazione dei risultati di bilancio e quindi insomma chi analizza i conti della società da tempo poteva prevedere insomma i dati che sono stati diffusi ieri a mercato chiuso, che sono tutti in rialzo, ma soprattutto oggi è piaciuto al mercato quello che l'amministratore delegato del gruppo Marco Sala ha detto sul 2011. Sala ha detto che visto lo slancio con cui la società ha iniziato l'anno c'è una fiducia rafforzata sul degli obiettivi del piano industriale al 2013. L'andamento dei primi 2 mesi quindi è stato positivo e proprio sulla scorta di questi dati molti analisti hanno alzato le stime sulla società e gli investitori hanno comprato il titolo che è stato di gran lunga il migliore tra le blue chip con un rialzo del 4,6%. Subito dopo, come già ricordavi, c'è Telecom Italia più 0,44% alla vigilia di quello che appare il weekend decisivo in vista del rinnovo dei vertici. Lunedì c'è il consiglio di amministrazione della holding telco da cui si attende la pubblicazione della lista di maggioranza per il rinnovo del CDA. Bulgari, terzo miglior titolo più 0,25%, anche questo nostro fiore all'occhiello del lusso su scala mondiale ha fatto molto parlare di sé in settimana per la scalata da parte dei francesi di Elvemash. Terna più 0,18%, Fiat sulla parità, Parmalat sulla parità. Andiamo ai peggiori: Buzzi Unici meno 2,82, Exor meno 2,71, Azimut meno 2,59. A Toz che cosa è successo che ha perso pure 2,5 punti? Per Toz, secondo gli operatori, si tratta di realizzi. Il titolo aveva guadagnato il 6,5% dalla fine della scorsa settimana, approfittando proprio anche del buon momento del comparto del lusso dopo l'offerta di LVMH su Bulgari. Oggi sono scattati i realizzi, il titolo infatti ha perso il 2,5%, ma il bilancio settimanale rimane comunque positivo. Allora, poi abbiamo il Banco Popolare anche, meno 2,34%, presto i conti anche per il gruppo. Sì, esattamente, i conti saranno pubblicati e approvati il 25 marzo, alcuni analisti stanno già hanno tagliato oggi le stime proprio in vista della pubblicazione dei risultati di bilancio, anche perché ieri la controllata quotata Credito Bergamasco ha comunicato i propri conti e ha tagliato il dividendo rispetto all'anno precedente da 1 euro a 0,9 euro, dividendo il cui principale beneficiario è proprio il Banco Popolare. Infatti. Prysmian, -2,18, Generali, -1,90, diciamo che ecco, nel settore assicurativo italiano si è sentito un po' meno il peso dello tsunami giapponese per Generali, che comunque ha perso 2 punti e non è poco, è stato comunque, non è stato proprio in assoluto tra i peggiori titoli della giornata. Mediolanum, -1,86, settore del lusso su strade differenti, perché mentre abbiamo visto una Bulgari leggermente positiva, Luxottica oggi ha lasciato sul campo l'1,84%, Finmeccanica -1,81, di Assorine -1,78. Abbiamo raccontato, Paolo, anche di Unicredit, noi oggi, con il congelamento del pacchetto libico. Sì, esattamente, la notizia di oggi, la società aveva già annunciato che in caso di conferma del blocco degli investimenti libici ci sarebbe stato il congelamento delle quote. Oggi è arrivata la conferma, il titolo ha chiuso in calo dell'1,17% a 1,77 euro, non tra i peggiori del comparto bancario, che è stato oggi tutto negativo, anzi, a dire la verità, uno dei migliori, meglio ha fatto solo Mediobanca, con un calo dello 0,93%. Altri casi da raccontare per questa giornata? Ma direi che i principali li abbiamo detti. In questi giorni rimane sotto i riflettori anche oggi, è stato comunque tra i migliori, ha chiuso in variata Parmalat, mentre si continuano a rincorrere le indiscrezioni sia sui candidati per il consiglio di amministrazione sia su possibili scenari strategici post rinnovo dei vertici tra i brasiliani e gli Lacteos, che sono a Milano, si dice dovrebbe essere a Milano incontrando i fondi azionisti di Parmalat e gli advisor. Vedremo ovviamente nei prossimi giorni, il titolo comunque rimane sostenuto in borsa. Bene, grazie a Paolo Paronetto, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore. Buonasera Paolo, a presto. Grazie a voi, buonasera. Andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. Sì, lo so che Sebastiano spesso si sbizzarrisce la sera a rispondere alle vostre osservazioni, io non ho l'autorevolezza per farlo. Detto questo, non abbiamo nemmeno molto tempo oggi, perché fra un po' c'è il giornale radio, poi dobbiamo dare la linea ai colleghi della redazione per lo speciale sul Giappone. Noi adesso andiamo ad un altro paio di approfondimenti prima di salutarci. Adesso parliamo di benzina. E la benzina la stiamo monitorando attentamente da molte settimane, da quando è ripreso a correre il prezzo del petrolio, tema ricorrente nei giornali radio e nelle nostre rubriche di approfondimento. Oggi abbiamo una nuova punta massima sulla rete carburanti a 1,61,30 euro. A muoversi a rialzo oggi sono state IP e Tamoil, che hanno aumentato di 0,5 centesimi listine di benzina e diesel. Il petrolio è sotto $100 al barile. Per il Giappone vedremo se nei prossimi giorni questa tendenza a ribasso continuerà, si accentuerà e se si trasferirà soprattutto sui prezzi dei carburante. Abbiamo qualche scetticismo su questo, ma lo vedremo solo nei prossimi giorni. Non ci sono dogmi definitivi sul prezzo della benzina, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico oggi, Paolo Romani, interpellato al termine della riunione della commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Non ci sono dogmi definitivi sulla formazione del prezzo della benzina, parliamo di benzina in maniera più semplice. Sono 3 le componenti, una parte fiscale, una parte di costo industriale con riferimento al PLAZ e poi il margine lordo, che è quello, diciamo, che va a vantaggio dei distributori e dei gestori. Ci vediamo di nuovo il 22 di marzo alle 10.30, noi riceveremo la prossima settimana, anche in presenza di una festa nazionale, tutti i documenti, tutte le proposte. Partiamo dagli accordi del 2008, dagli accordi dell'aprile dell'anno scorso e del settembre dello scorso anno, di cui facciamo sintesi, e immaginiamo un percorso che affronti da un lato l'emergenza del costo, quindi con provvedimenti, ci auguriamo, ragionalmente veloci, e poi una riforma strutturale sulla quale siamo impegnati a trovare un accordo definitivo. Ho raccolto stamattina una sensibilità positiva da parte di tutte le parti e la voglia di lavorarci seriamente. Raccogliamo tutte le proposte, tutti i documenti che ci vengono forniti dall'Unione Petrolifera, dalla Sopetroli, dai gestori e anche dai consumatori. Quindi oggi c'era la rappresentanza completa, diciamo. Una volta che noi raccogliamo, avendo già, mi consentirete, qualche piccola idea come Ministero, avendoci lavorato per tanto tempo, e quindi sulla base di questa sintesi degli accordi pregressi, delle nuove proposte e del lavoro di approfondimento del Ministero, rivederci martedì alle 10.30 del 22, non settimana prossima, il 22 di marzo, per verificare se ci sono le possibilità di fare un accordo, ripeto, sia da un punto di vista, diciamo, immediato, sia da un punto di vista strutturale. E quindi riteniamo che 10 giorni siano un numero non eccessivo ma sufficiente per fare un approfondimento serio. I gestori dei carburanti sono rimasti, degli impianti di distribuzione sono rimasti un po' delusi dalla riunione di questa mattina. Hanno fatto sapere per bocca dei sindacalisti che sono intervenuti appunto alla riunione del comitato tecnico di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti, che si aspettavano qualcosa di più, soprattutto su un possibile intervento da parte del governo sulle accise, sulla leva fiscale. Così almeno ha detto Martino Landi, presidente della FAIB Confesercenti. Noi per i sindacalisti dei gestori e dei distributori abbiamo sentito il presidente di FIGISC Confcommercio, Luca Squeri. Il ministro ha convocato l'osservatorio sui prezzi per affrontare un tema chiaramente di grande attualità e di grande criticità. Per quello che riguarda noi gestori della FIGISC Confcommercio, noi riteniamo che la situazione sia veramente critica, non solo per gli automobilisti ma anche per i gestori, che non solo vedono i consumi diminuire ma vedono, per colpa degli oneri finanziari aggiuntivi, veramente vedere il proprio margine ridursi, a rischio addirittura di poter continuare l'attività. Noi abbiamo chiesto al Ministro di fare un atto deciso nei confronti di questa situazione, per cui agendo sulla leva fiscale e facendo sì che l'accisa sia resa mobile e dunque poter abbassare il prezzo alla pompa della benzina. Non solo, visto che la situazione è emergenziale, rispetto a una situazione di emergenza, istituire fin quando sarà necessario il prezzo amministrato, cioè controllare e governare il prezzo in modo tale che non ci siano tensioni così esasperate sul mercato. Rapidamente cambiamo argomento. Negli ultimi tre minuti di tempo che ci rimangono a disposizione, oggi a Milano c'è stato l'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi al seminario Mafie a Milano e nel Nord, aspetti sociali ed economici. Mafia SPA, questi dati Sebastiano Barisoni ve li ha ricordati molto spesso, è la prima azienda italiana per fatturato ed utile netto. Nel 2009 ha fatturato qualcosa come 135 miliardi di euro e almeno 70 sono i miliardi di utili. Questo è uno studio di Confesercenti Impresa di gennaio di un anno fa. Contrastare le mafie, la presa che esse conservano al sud, l'infiltrazione che tentano al nord, serve a rinsaldare la fibra sociale nel paese ma anche a togliere uno dei freni che rallentano il cammino della nostra economia, ha detto Draghi intervenendo a questo seminario. La criminalità organizzata può sfibrare il tessuto di una società, può mettere a repentaglio la democrazia, frenarla dove debba ancora consolidarsi. E poi la Puglia e la Basilicata, a causa del contagio della criminalità organizzata nell'arco di 30 anni avrebbero registrato come area una perdita di PIL di 20 punti percentuali. Sentiamo questo passaggio dell'intervento del governatore Draghi. Per isolare l'effetto della presenza mafiosa sulla crescita economica da quello di ogni altra causa, abbiamo condotto in Banca d'Italia, su sollecitazione della Commissione Antimafia, un'analisi sulle due regioni meridionali oggetto di più recente infiltrazione da parte della criminalità organizzata, la Puglia e la Basilicata. Abbiamo confrontato lo sviluppo economico di queste due regioni nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso avvenuto verso la fine degli anni 70, con quello di un gruppo di regioni del centro-nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. I risultati mostrano che in concomitanza con il contagio, Puglia e Basilicata sono passate da una crescita del prodotto pro capite che era più rapida di quella del gruppo di regioni inizialmente simili a una più lenta. Quindi Puglia e Basilicata crescevano più rapidamente di regioni simili del centro-nord prima del contagio mafioso, crescono più lentamente delle altre regioni dopo il contagio mafioso. Nell'arco di 30 anni, all'insorgere della criminalità organizzata sarebbe attribuibile una perdita di prodotto interno lordo di 20 punti percentuali. E tutta questa perdita è essenzialmente ascrivibile a minori investimenti privati. La crisi che abbiamo vissuto nei passati tre anni non ha certo migliorato le cose. Non poche imprese che hanno visto drammaticamente ridursi i flussi di cassa e il valore di mercato sono diventate più facilmente aggredibili dalla criminalità, ha continuato Draghi. Anche nell'area del contrasto all'usura, il governatore di Banca d'Italia ha detto che la legge attuale antiusura può essere migliorata in quanto fissa soglie troppo rigide che escludono l'accesso al credito per molti. Sentiamo Draghi. Noi abbiamo una legge che fissa delle soglie antiusura. È una legge che probabilmente può essere migliorata. L'attuale sistema prevede cosa? Prevede il calcolo di un tasso medio di mercato su un certo tipo di operazione bancaria e poi l'applicazione della metà di questo tasso come tasso massimo. Quindi questo sistema oggi, con periodi di tassi molto bassi come gli attuali, effettivamente esclude dall'accesso al credito molte imprese e individui che potrebbero averlo. Ma l'attuale sistema è un sistema che irrigidisce molto il processo di erogazione del credito. Per cui oggi, per esempio, specialmente con tassi bassi, come dico, c'è la possibilità che molti non abbiano accesso al credito bancario e quindi si rivolgono ad altre forme. Noi, la Banca d'Italia sta preparando una proposta, ma le linee di questa proposta sono un sistema per cui si potrebbe avere una soglia che è un po' più alta quando i tassi sono bassi e un po' più bassa quando i tassi sono alti. Quindi un sistema più flessibile dell'attuale che però contemperi le due esigenze, certezza per l'amministrazione della giustizia, ma anche presenza di un tasso che non sia esorbitante per il cliente della banca. E anche per questa sera Focus Economia termina qui. Avete sentito alcuni stralci dell'intervento di Mario Draghi oggi al seminario a Milano Mafie, a Milano nel Nord, aspetti sociali ed economici. Saluto gli ascoltatori che molto affettuosamente mi hanno scritto molti messaggi, in particolar modo quello di Lino che mi prende un po' in giro e mi dice, insomma, mi dici qual è il prezzo dell'oro al barile, sapendo che ogni tanto mi confondo fra barile e oncia. Grazie a Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, oggi in Focus Economia un po' tutta al femminile, per la redazione che non contemplava appunto elementi di sesso maschile nella preparazione del programma. Grazie a tutti per essere stati con noi. A lunedì, per quello che mi riguarda, con Salva Danaio. Buon weekend. Radio 24. La passione si sente.